piano. Di Enrico Ruggeri. Oggi parliamo di un uomo che ci ha fatto sorridere, anzi, ci ha fatto ridere, il re della caduta per finta, l'imperatore della gag, magari stupida però esilarante, quello che ti fa ridere fino ad arrivare alle lacrime. Oggi parliamo di Jerry Lewis, attore, regista, sceneggiatore, produttore di alcuni dei film più divertenti di Hollywood, primo tra tutti direi Le folli notti del dottor Jerry, l'uomo che ha coperto d'oro se stesso ma anche le grandi major americane, uno che ha riempito di gioia anche la critica più difficile, per esempio gli altezzosi critici cinematografici europei, magari francesi. Bene, lui ce l'ha fatta, ha coniugato pubblico e critica. In 70 anni di carriera Jerry Lewis ha vissuto per un unico scopo. E l'ho anche detto, è famosa la sua frase: divertire è la mia vita, per fare questo vale la pena di rischiare tutto, darci tutto dentro. La sua è stata una carriera particolare, ma comunque sempre in ascesa. Aveva 19 anni quando ha ottenuto i suoi primi ingaggi nei club dell'epoca, stiamo parlando dell'immediato dopoguerra, ed è andato avanti fino all'ultimo. Si è spento nell'agosto del 2017. Lui non ha mai smesso di progettare il prossimo scherzo, la battuta seguente, anche a costo di prendersi in giro. Lui dice: ho avuto un grande successo facendo l'idiota. Jerry Lewis nasce il 16 marzo 1926 a Newark, nel New Jersey, e nella sua autobiografia lui rivela di chiamarsi Joseph Levitch. Altri dicono che il nome del suo certificato di nascita fosse Jerome. Di certo c'è che i suoi genitori, che si chiamavano Danny e Ray, avevano da tempo trasformato quel cognome così identificativo, un cognome che rivelava troppo le loro origini di ebrei russi. Quindi da Levitch a Lewis. Lavorano entrambi nello spettacolo, i genitori. Il padre è un ballerino, un maestro di cerimonie, e la madre è una pianista. E il nome Lewis non era, insomma, particolarmente adatto. Mia madre e mio padre lavoravano insieme. Mia madre suonava per mio padre, era un'ottima pianista. A volte mio padre lavorava anche da solo, nel burlesque, e faceva tutto quello che si può fare nel mondo del teatro. Sarà stata genetica o abitudine, fatto sta che lui segue subito le orme dei genitori. Da quando ottiene la prima risata in pubblico per avere accidentalmente urtato una luce del palcoscenico, il suo destino è segnato, perché capisce che non c'è niente di più inebriante che raccogliere l'attenzione del pubblico, e in breve diventa bravissimo a raccontare barzellette, a inventare gag, a fare il clown. Per poter stare con mia madre e mio padre facevo il ragazzo tuttofare, perché non venivo pagato come parte della troupe. Quindi mi davo da fare e a volte portavo anche le bevande, ma era anche quello che faceva più soldi dell'intero staff, perché intrattenevo tutti quelli con cui avevo a che fare. Se qualcuno aveva bisogno di un asciugamano o di una bevanda, io ci mettevo 4 o 5 minuti, perché nel frattempo mi inventavo delle gag. A loro piaceva un sacco e io ho imparato tantissimo, una grande esperienza. È molto precoce, ed è precoce in tante cose. Per esempio, a 12 anni ha la sua prima esperienza sessuale. Eh sì, perché mentre il padre si esibisce sul palco di un club di spogliarelliste, una delle giovani lo attira nel suo camerino e, diciamo, lo disfa della sua verginità. E il suo commento fu: qualsiasi cosa facemmo, ricordo che ci volle solo un minuto, però lei era un bel tipo, ballava con un serpente. Naturalmente bisogna anche andare a scuola in mezzo a queste esperienze teatrali e anche sessuali, però anche lì i suoi anni di studio sono costellati da piccoli show organizzati per i suoi compagni di classe, e il suo unico obiettivo ormai è quello di tornare sul palco. A 16 anni finalmente lascia la scuola, si mette a cercare lavoro, vuole viaggiare, vuole stare con i genitori, che è una cosa eccitante però anche faticosa. I had to Viaggiavo molto con loro ed era molto eccitante, ma se ci ripenso e ci rifletto ora, non è una cosa che mi rende molto felice. Ora che non sono più un ragazzino di 7 o 8 anni, mi rendo conto che sono stato in un numero infinito di scuole. Credo che ci siamo trasferiti almeno 15 o 16 volte. Andavo da una scuola all'altra, tanto che alla fine il risultato è che sono rimasto indietro. Ed è stata una cosa molto brutta, che ha lasciato una cicatrice scura e profonda. Dark scar. Una cicatrice scura e profonda, è una frase interessante, poetica, è una cicatrice profonda che gli viene dall'infanzia, anche perché spesso i genitori lo lasciano alle cure di qualche parente distratto e a lui ha questa esperienza, l'esperienza di essere passato di mano in mano, lontano dai genitori, e questo gli lascia un perenne senso di insicurezza, il desiderio di conquistare affetto, attenzione di chiunque lui abbia accanto. Forse sarà anche per questo bisogno di attenzione che lui intraprende questa carriera e sceglie di cambiare il suo nome con un nome d'arte. Rimane il cognome Lewis, però diventa Jerry, intanto perché vuole distinguersi da un altro comico attivo in quel periodo dal nome Joe Lewis. Joe è il diminutivo di Joseph, ma forse anche per staccarsi il più possibile dalle sue origini. E arrivano i primi ingaggi, che ovviamente sono nei club di striptease. A quei tempi si usava alternare i numeri delle ragazze con quelli di un comico, la rivista, c'era anche in Italia questa abitudine, quindi locali magari dimessi, addirittura sordi, di pubblico svogliato, magari indifferente nei confronti di un poveretto che si sta sbracciando sul palco perché magari il pubblico aspetta le donnine. Insomma, una palestra ottima. Anche molti grandi attori italiani vengono da quella palestra. Poi arriva la guerra, lui viene riformato per un mormorio al cuore e quindi può proseguire la sua carriera senza sosta. Cominciano ad arrivare degli impegni più sostanziosi, degli ingaggi migliori, e poi arriva anche l'amore, perché in un'esibizione del 1945 lui incontra Patty, che è una cantante della band di Tommy Dorsey. Lei ha 4 anni più di lui, però si sposano dopo 3 mesi, hanno subito un figlio, Gary, che peraltro negli anni 60 ebbe un momento di popolarità con un gruppo, Gary Lewis and the Playboys. E insomma, la vita del nostro protagonista, di Jerry Lewis, sembra assestarsi, almeno a livello personale. Però naturalmente il lavoro del comico non è facile, soprattutto quando si ha una famiglia. Era la notte di Capodanno e mia moglie era rimasta a casa con il bambino. Io invece ero a Boston e guardavo le coppie che si tenevano per mano, si abbracciavano. Osservavo tutte queste persone insieme e mi sentivo totalmente solo, in una notte in cui vorresti che colui che ami sia con te. È molto sconcertante, perché devi uscire sul palco a far divertire la gente. Sono momenti duri, ma non puoi leccarti le ferite e dispiacerti per te stesso. Devi andare avanti. Il tuo impegno è quello di intrattenere quel pubblico. Quella gente non è interessata alla tua vita personale. Il tuo impegno è nei loro confronti. Comunque il 1945 è un anno particolare, direi fortunato per Jerry, perché non solo incontra la moglie Patty, ma incontra un'altra persona, una persona che sarà fondamentale nella sua vita, perché da lì nasce un sodalizio destinato a fare epoca, e il sodalizio nasce con Dean Martin. Siamo nel 1945, l'abbiamo detto. Jerry Lewis ha 19 anni e si sta esibendo in un club di New York. In quello stesso club sta per cantare un signore, un ragazzo di origini italiane, Dean Martin, che in realtà appunto è italiano, nasce come Dino Crocetti, un bel ragazzone, 28 anni, una voce profonda, è una specie di sex symbol per gli standard di quel tempo. Insomma, uno che ha molto successo con le donne, l'esatto contrario di Jerry Lewis, che è un tipo di 60 kg, tutto denti, con le tracce dell'acne giovanile, piccolino, insomma, due persone completamente diverse, forse per quello compatibili. C'è questa bellezza, diciamo, virile di Dean Martin, e l'altro che ha un aspetto che sfiora il ridicolo. Poi ci sono altre cose che li dividono. Dean Martin ha la voce profonda, un crooner, è rilassato nel parlare, l'altro è un fascio di nervi, è sempre in movimento, ha una voce acuta che sottolinea ogni situazione, e sono veramente diversi, ma lo sappiamo che gli opposti spesso si attraggono e comunque funzionano assieme. Così i due continuano a incontrarsi dietro al palcoscenico dopo le rispettive performance, fanno amicizia e nasce questa abitudine di ridere, di scherzare assieme. E a un certo punto, a forza di ridere, nasce il desiderio di fare qualcosa in coppia. L'idea è quella di unire le loro competenze e dar vita a un duo comico musicale. Debuttano in un club a Atlantic City nel luglio del 46, due show a serata. Il primo spettacolo va male, il proprietario del club li avverte: se per il secondo show non si inventano qualcosa, possono ritenersi licenziati. Sono tempi spietati, insomma, la rovina è sempre dietro l'angolo, ma anche il successo è dietro l'angolo. Tutto si decide in pochi minuti, non c'è appello. Così la coppia deve inventarsi qualcosa. E i due cambiano tutto, decidono di improvvisare sulla base però di un'idea molto precisa, che è quella che Dean Martin canti le sue canzoni mentre Jerry recita il ruolo del cameriere impacciato che deve portare un bicchiere di whisky al cantante, che combina un sacco di guai rovinando la performance di Dean. E questo cocktail funziona. Jerry Lewis conclude lo spettacolo in fuga tra i tavoli del club mentre Dean Martin è in Falito gli tira dietro dei panini. E lo show ha un successo immediato, l'ingaggio è salvo. E non è solo questo, la nuova coppia di Atlantic City diventa subito famosa dopo pochi mesi, è contesa dai maggiori club della East Coast. E nel giro di pochissimo il duo Jerry Lewis e Dean Martin può permettersi di chiedere cifre astronomiche, di diventare una delle coppie artistiche meglio pagate del momento. Vanno anche al Copacabana, che è il locale più famoso di New York, siamo alla fine degli anni 40. Sentiamo proprio secondo Jerry Lewis qual è stato il segreto del loro successo. Chi erano i fan di Dean? Uomini, donne e italiani. Chi erano i fan di Jerry? Donne, ebrei e i bambini. Chi erano i fan di Martin e Lewis? Tutti. Ai fan non importava cosa facesse Jerry o se Dean cantasse, perché quando Dean cantava si trattava sempre del duo Martin e Lewis, e se Jerry usciva fuori di testa era sempre all'interno della coppia Martin e Lewis. Eh sì, il loro era un successo che si fondava su pochi pilastri, molto semplici. Intanto l'evidente differenza fisica, uno prestante, l'altro ridicolo. E la loro relazione ricordava quella tra un adulto e un bambino un po' sciocco e sicuramente pasticcione. Dean giocava a fare l'uomo cinico, disincantato. Jerry era il ragazzino dai grandi occhi innocenti, spalancati sul mondo, che magari cadeva, inciampava, ma era capace anche di offrire una nuova lettura della vita al suo partner e quindi di conseguenza anche al pubblico. Jerry guarda Martin con l'aria di un fratellino che cerca l'approvazione del maggiore attraverso la comicità, e quando trova questa approvazione è felice, e Martin risponde con uno sguardo sornione di malizioso affetto, risponde così alle malefatte di Jerry perché capisce che dietro c'è il genio. Un altro fattore importante è proprio che Jerry e Dean si divertono veramente, sono i primi che traggono piacere dalla partnership con l'altro, non stanno recitando, si divertono tra di loro. Il pubblico capisce questa cosa, perché quando ti diverti sul palco il pubblico se ne accorge, e il risultato è una comicità leggera, disimpegnata, magari stupida, ma molto coinvolgente. Ricordiamo anche che c'è un popolo che sta guarendo dalle ferite di una guerra molto dolorosa, e nel dopoguerra in tutto il mondo si ha voglia solo di tornare a sorridere. Secondo la rivista Life, all'inizio degli anni 50, Martin e Lewis sono la coppia meglio pagata dello show business. Dai club sono passati al cinema, prima in sordina come diciamo gruppo comico di appoggio, poi come veri e propri protagonisti di film di successo, da Mezzogiorno di FIFA a Artisti e Modelle. Qui c'è un estratto proprio di Artisti e Modelle. Donne vampiro, al diavolo tu e i tuoi fumetti, è l'unica cosa a cui sai pensare. No, spesso penso anche alle belle ragazze. Anch'io penso alle ragazze, non posso fare altro, solo pensarci. Ma se ne voglio avere una, niente. Per colpa tua resterò scapolo. Ricordi perché ce ne siamo andati dal paese e siamo venuti a New York? Perché tu promettesti di sposare Ophelia Jackson e suo padre lo crede. No, non fu la sola ragione. Poi c'era quell'altra ragazza, Mabelia Smith, col suo papà. Piantala, vieni qui. Siamo venuti a New York per fare quattrini e studiare arte. Io dovevo diventare un famoso pittore ed essere esposto nelle gallerie d'arte. Già, essere esposto nei musei. E per poco non ti esposero a un albero del paese. Lascia stare il paese, rammenta perché tu sei venuto a New York. Ecco, io... Perché sono venuto a New York? Sì, forse... Esatto. Dovevi diventare uno scrittore. Volevi scrivere storie per bambini con coniglietti, topolini e anatroccoli. E allora? Che cosa hai fatto? Nulla. Si definiscono l'Adone e la Scimmia loro due, e questa coppia diventa una vera e propria azienda da profitti enormi. E dai primi anni nei quali hanno inventato le loro gag sul momento, adesso cominciano a collaborare con nuovi autori. Per esempio ci sono due ragazze, sono Norman Lear e Dead Simmons, che scrivono i loro sketch, e quindi diciamo la varietà si amplia. E poi viene affidato ai due anche un programma radio, il Martin e Lewis Show, che dura dal 49 al 53. E poi ci sono i film, sono tanti, con la Paramount. Le parti però sono sempre quelle di Martin al ruolo del bello romantico e Jerry del comico. E a Dean Martin questa cosa comincia a stare stretta, anche perché la stampa comincia a notare di più Jerry, lo considera il vero personaggio vincente della coppia. E in realtà, in grande onestà intellettuale, Lewis ha sempre sottolineato quanto il talento comico di Martin fosse fondamentale per la buona riuscita delle gag. Insomma, la spalla è indispensabile a un grande comico, però la verità è che la coppia è sempre più sbilanciata e la fine del duo Martin e Lewis si sta avvicinando. Il falco e il gabbiano. Durante i primi anni 50 la coppia d'oro dello showbiz americano è sicuramente il duo formato da Dean Martin e Jerry Lewis. Hanno ingaggi nei migliori club della East Coast americana, si esibiscono davanti a migliaia di spettatori nei teatri, hanno uno show radiofonico, hanno un programma televisivo e fanno decine di film a Hollywood. Però Dean Martin comincia a essere stanco, è stanco perché Jerry Lewis è iperattivo, è disposto a qualsiasi cosa pur di esibirsi e probabilmente anche di accumulare denaro. Jerry, dal punto di vista di Dean Martin, ha perso la visione del lavoro, ha perso quel divertimento che era così importante agli inizi. Jerry ha molte ambizioni e si sente in competizione addirittura con Charlie Chaplin, si sente pronto non solo a recitare ma anche a scrivere, a dirigere, a allestire i suoi sketch. È un workaholic, come si dice oggi, cioè un uomo che non sa stare fermo, che lavora anche 15 ore al giorno. Anch'io sono un po' un workaholic, dicono. Dean Martin è invece completamente diverso, ha un approccio più rilassato, ama il golf, la famiglia, vuole godersi la vita e poi è un po' stanco di interpretare sempre la stessa figura, quella del playboy canterino, e vuole tentare ruoli drammatici, vuole ampliare i suoi orizzonti. Ama Jerry ma non ne capisce più gli obiettivi, non è d'accordo con questa sete di denaro. E Jerry intanto riconosce che non si potrebbe avere miglior partner che non Dean, però è ambizioso, è impaziente, vuole trasformarsi nel comico più famoso d'America. Insomma, la relazione comincia a inasprirsi quando esce il film Il nipote picchiatello, che peraltro è un film di grande successo. I due però sono già, diciamo, in rotta di collisione. Dean Martin addirittura non si presenta alla prima del film, di cui vi faccio sentire il trailer in italiano. Da queste poche immagini vi potrete già immaginare cosa combinano Jerry Lewis e Dean Martin venendosi a trovare in mezzo a questo branco di belle ragazze. Ma per il vostro divertimento v'è ancora di più. Questa volta Jerry Lewis si è travestito da ragazzino. Le ragioni di questo suo travestimento sono molteplici. Una delle principali è quella che un gangster vuole la sua pelle. Poi c'è una graziosa professoressa che piacevolmente gli insegna come comportarsi con le ragazze. Senti, tu vai con le ragazzine, le grandi lasciale a me. Dean Martin ricorre alle belle canzoni per conquistare il cuore dell'amata. Beh, sentite anche quanto erano ingenui i trailer cinematografici di quegli anni. Ma torniamo a noi, sono molte le gocce che stanno per far traboccare il vaso. E poi c'è per esempio una copertina di una rivista, Look, che esce con una foto della coppia, però la testa di Dean Martin è quasi tagliata per poter focalizzare il volto di Jerry. Insomma, si prosegue con Dean, che è sempre più seccato. Un giorno risponde male a Jerry dicendogli che il loro rapporto non è altro che un modo per far soldi, e Jerry gli ricambia la cortesia, perché nel 56, all'inizio delle riprese del film Delinquente Delicato, Dean non è entusiasta, deve recitare nei panni di un poliziotto, ma rifiuta la parte, vorrebbe un cambio di copione, vorrebbe qualcosa di più stimolante per lui. Jerry gli risponde: vuol dire che prenderemo qualcun altro. È la fine della loro unione, durata 10 anni, con 17 film girati assieme. Da quel momento i due non si rivedranno più per ben 20 anni. Poi arriva il 76, c'è una maratona televisiva, un Teleton che Jerry Lewis ha organizzato per ottenere fondi a favore della distrofia muscolare, e c'è Frank Sinatra che vuole la grande reunion, perché intanto Dean Martin ha stretto una forte amicizia anche professionale con Frank Sinatra. Bene, Frank Sinatra fa finta di annunciare la visita di un amico, e poi arriva Dean Martin, insomma quello che oggi chiameremo una carambata. Si sente anche un Son of a Beach, che però viene detto con grande affetto tra i due fratelli che si sono trovati dopo tanto tempo. Listen, I have a friend who loves what you do every year and who just wanted to come out. Would you send my friend out, please? Where is he? Would you send him out here? Come here. Colpo di scena, ecco. Frank Sinatra sta introducendo Dean Martin. All right, break it up. What is this here? Break it up. I think it's about time, don't you? And thank you. Yeah, I think it's about time. We folks. E secondo la biografia scritta dalla figlia di Dean Martin, dal momento in cui si sono ritrovati, Jerry e Dean, diciamo, non si sono più lasciati, si sono sentiti spesso al telefono fino alla morte di Martin, che era avvenuta nel 95. Anni dopo, Lewis commentò la separazione con queste parole: non riuscirò mai a capire la stupidità di quanto è successo, e la mia speranza è di poter dimenticare per sempre questa assurdità. In effetti, la fine del sodalizio con Dean Martin è un trauma per Jerry Lewis. Tutti quegli anni non si dimenticano. Lui si prende una vacanza a Las Vegas con la moglie Patty, vuole riconsiderare le sue prospettive, e naturalmente la risposta è tuffarsi ancora di più nel lavoro. La sua capacità di entrare in nuovi progetti lo aiuta a costruirsi una carriera individuale. E così, dopo la rottura, Jerry Lewis diventa l'unico protagonista principale di 3 film per la Paramount: Il Delinquente Delicato, Il Balio Asciutto e Il Ponticello sul Fiume di Guai. Quindi film anche, diciamo, che diventano parodie di film famosi. Lewis ottiene un nuovo contratto, $10 milioni nel 1959. Il primo prodotto di questo accordo è il film Il Cenerentolo. La Paramount vuole farlo uscire nell'estate del 60. Jerry è convinto che il film sia più adatto per le feste natalizie, ha già considerato, diciamo, il film di Natale. Si oppone alla casa di produzione, allora gli chiede di scrivere e interpretare un nuovo film da far uscire per l'estate. Lui lo fa, si inventa il film Il Ragazzo Tuttofare, praticamente una sequela di gag mute che arrivano senza una vera e propria sceneggiatura. Un successo enorme. Inizialmente Jerry aveva chiesto a Billy Wilder di occuparsi della regia, ma Billy Wilder era occupato con A Qualcuno Piace Caldo. Suggerisce a Jerry di fare il regista lui, e lui accetta. Da quel momento Jerry inizia a firmare la regia di quasi tutti i suoi film, che sono grandi successi. Il più grande sicuramente è Le Folli Notti del Dottor Jerry. Siamo nel 1963, è la parodia della famosa storia di Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. In questo caso c'è questo imbranatissimo professore, appunto Jerry, che inventa una pozione che lo trasforma in un playboy che si chiama Buddy Love, amato dalle donne e invidiato dagli uomini. Appena ho iniziato a scrivere è stato amore a prima vista. E quando ti innamori di qualcosa, la fai molto meglio. Il falco. Il gabbiano. Stiamo parlando di Jerry Lewis, il grandissimo attore comico scomparso il 20 di agosto del 2017, un iperattivo, uno innamorato del lavoro, anzi forse malato di lavoro, un eclettico, un narcisista, un egocentrico, ma anche una persona incredibilmente buffa, divertente, uno dei più grandi talenti comici degli ultimi decenni, una comicità che è stata lodata anche dai critici, anzi rispetto ai critici statunitensi che sono stati magari non troppo teneri nei confronti di Lewis in Europa, lui è diventato una vera e propria icona popolare, soprattutto in Francia, dove Lewis è stato osannato anche dalla famosa rivista cinematografica molto snob, I Cahiers du Cinéma. Jean-Luc Godard sosteneva che Lewis fosse addirittura più innovativo di Charlie Chaplin e di Buster Keaton. Gran parte della sua fama presso i francesi sicuramente è dovuta alla capacità di Lewis di curare ogni singolo aspetto della produzione, di avere una visione, come ci spiega Thierry Frémaux, direttore del Festival del Cinema di Cannes. Jerry Lewis ha inventato uno stile unico, inedito, quasi coreografato. E se all'epoca l'America vedeva in lui solo il comico o lo showman, in Francia invece veniva riconosciuto l'artista dalla voce e dall'occhio unico sulle cose. Lui ormai scrive, interpreta, dirige, produce. Si dice che dal 59 al 66 abbia fatto guadagnare alla Paramount 450 milioni di dollari. Stiamo parlando di un'epoca nella quale il biglietto del cinema costava 75 centesimi. Insomma, è una gallina dalle uova d'oro. Il film Le folli notti del dottor Jerry è la prova. È un successo enorme. È uno tra i 100 film destinati a essere preservati nella Biblioteca del Congresso americano. Eh sì, perché il film non è solo comico, e in qualche modo riesce anche a essere uno studio sulla doppia personalità, a suo modo è inquietante quanto divertente, e forse proprio per questo è il film più apprezzato e analizzato tra quelli di Jerry Lewis. Nello strambo professor Kelp e nel playboy Buddy Love molti vedono rappresentata la coppia Jerry Lewis di Martin, in realtà la doppia personalità è soprattutto quella di Jerry. Per imparare una lezione della vita non è mai troppo tardi. Io non voglio essere... non voglio essere qualcosa che non sono. Non mi piaceva essere qualcun altro. E nello stesso tempo sono contento di esserlo stato perché ho scoperto una cosa di cui non mi ero reso conto. È meglio andare d'accordo con se stessi. Pensate a tutto il tempo che uno deve passare con se stesso. E... beh... se non si ha stima di noi stessi, come si può pretendere che ce l'abbiano gli altri? Ecco quel che ho scoperto. Vedete, non è solo grasse risate Jerry Lewis, lui è un uomo dalla personalità complessa e i suoi personaggi sono come lui. Jerry è un uomo che piace, ama le belle donne, si racconta che abbia avuto anche una storia con Marilyn Monroe, però ha sempre giocato a essere quello brutto, quello impacciato, proprio come il povero professor Kelp del film. Jerry è un uomo intelligentissimo che ha giocato a fare l'idiota, è un egocentrico, un narciso sicuramente, che però per tutta la vita ha sofferto di questa solitudine provata durante l'infanzia. Insomma, in qualche modo nel dottor Jerry lui sta descrivendo se stesso, riesce però anche a descrivere l'intera popolazione maschile americana di metà Novecento, quella che vede in Buddy Love l'uomo che vorrebbe essere e nel professor Kelp quello che, ahimè, è in realtà. Però insomma, quando nel 66 Jerry Lewis compie 40 anni, può ritenersi molto soddisfatto, è popolarissimo, è ricchissimo. Pensate che per il suo compleanno chiede alla Paramount di cedergli dopo 30 anni il 30% dei diritti dei suoi film, cosa che è successa nel 96, e rendendo a Jerry altri milioni di dollari. E poi non finisce qui, lui ha una moglie che adora, Patty, e 6 figli maschi, tra i quali uno adottato. Con la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70, la carriera di Jerry Lewis conosce una battuta d'arresto, e perché il mondo sta cambiando, è arrivata la contestazione, sono arrivati altri tipi di valori, forse una comicità fatta di botte e risposte, a volte magari stupide, forse sta un po' tramontando per lasciare spazio a un altro tipo di comicità, quella degli anni 70, legata magari a un umorismo cinico, intellettuale. Sta arrivando Woody Allen, stanno cambiando tante cose, insomma alla fine anche il vulcanico Jerry deve prendersi una pausa e si allontana dalle scene per ben 11 anni dopo aver sfornato 2 film all'anno per tutti gli anni 60. Negli anni 70 in un decennio ne completa solo uno. E sono anni difficili anche dal punto di vista medico. Nel 65 ha una caduta che lo vede immobilizzato per 4 mesi, diventa dipendente dagli antidolorifici, poi arriva un cancro alla prostata, arriva il diabete, arrivano 2 attacchi di cuore, una fibrosi polmonare, insomma è messo veramente male e comincia a peggiorare anche la vita familiare. Si separa nell'80 dalla moglie Patty dopo 40 anni di matrimonio. Qualche anno dopo si risposa con Sandy di Pitney, che è una ex ballerina che incontra in Florida, che gli rimarrà al fianco per il resto della sua vita. E nel 1982 torna al cinema, questa volta per un ruolo drammatico nel film di Martin Scorsese intitolato Re per una notte, un ruolo difficile che non viene capito molto dal grande pubblico, che è abituato a un'altra immagine, all'immagine da picchiatello. Però il cinema non è l'unico impegno di Jerry Lewis. Per anni lui conduce le maratone Teleton per trovare i fondi per l'associazione di distrofia muscolare. Negli anni, a partire dal 52 al 59, poi dal 66 al 2010, ha raccolto quasi 2 miliardi di dollari, avete capito bene, 2 miliardi di dollari. E negli ultimi anni la salute comincia veramente a impedirgli di fare tutto quello che vorrebbe fare, qualche progetto lo mette ancora in cantiere, fa qualche spettacolo dove affronta il pubblico completamente da solo come faceva 50 anni prima, fa qualche intervista, peraltro nelle quali magari non è sempre cordiale. Dichiara che vuole arrivare fino a 101 anni, vuole fare tante cose, vuole veder crescere la figlia Danielle, adottata con la seconda moglie, vuole vedere la figlia laurearsi e sposarsi, però un desiderio che non verrà esaudito. Si spegne nella sua casa di Las Vegas a 91 anni per un'ischemia. Si pensa spesso a quando si invecchia, ma quando ci arrivi scopri che non è quello che pensi. La cosa che mi disturba più di ogni altra cosa della vecchiaia è che non posso più fare quelle cadute che facevo per finta. Questo mi dispiace, ma a 90 anni non si può far finta di cadere, a meno che tu non intenda cadere davvero. È vero, è difficilissimo invecchiare e conciliarsi con questo pensiero, soprattutto se sei uno come Jerry Lewis, che è stato ricco, famoso e che ha fatto ridere intere generazioni. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala. Jerry Lewis lo ha fatto a colpi di sorrisi e di risate, ma ognuno di noi nella vita può darlo quel colpo d'ala, può volare in alto come il falco e il gabbiano. Se volete mandare i vostri commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite nei miei, nei nostri social, insomma lo sapete, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.